nascono i flagelli dalla mano dei musicanti di vento. Sono stato ingabbiato in vizi dolci amari che indisturbati bivaccano col mio ipotalamo. La madre delle madri ostenta la sua natura animale. La madre delle madri ostenta la sua creatura mortale. La madre delle madri ostenta la sua natura animale. Creatura mortale.